Yes, people, questo è Jolly Roger. Iniziamo questa nuova puntata venerdì 17 marzo, ultimo weekend invernale, e poi da settimana prossima finalmente è primavera. In questa settimana abbiamo ospite la nostra amica Carola, compagna di classe del nostro speaker Matteo. Quindi salutiamo la terza E del liceo linguistico Orazio, salutiamo anche la professoressa Giovanna Mirra, salutiamo tutti i suoi compagni di classe. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori, tutte le amiche e tutti gli amici che frequentano e condividono lo spazio con noi del Brancaleone. Settimana scorsa abbiamo parlato del mondo dei colori, che per noi di Jolly Roger non esistono né bianco né nero, esistono le mezze sfumature o le mezze misure. Quindi iniziamo la nostra puntata con un pezzo musicale a riguardo dei colori, visto che ormai, come si diceva prima, questo è l'ultimo weekend d'inverno, i colori si stanno tendendo alla primavera, inizia finalmente il bel tempo, il sole e noi siamo belli carichi. Iniziamo così. I tuoi sogni, fuori sento i tuoni, ma non mi abbandoni mai. Se ci sei tu, non mi sento più giù. Con te io levo i miei freni, dai miei pensieri inibitori, ehi. Non c'è bisogno che chiedi, tu mi completi, imiti i modi miei. Tendimi, tendini, tieni le redini, reggimi i piedi. Poggiati fatti con me, quadri astratti su delle pareti. Io e te, sai che non è una gang, forse molto di più. Ora non dirmi che vedi un volto in TV, ma è chiaro con me non sei mai grado. Cerco un porto e di faro maremoto il mio stato. Sai che non credo più a te, non ho le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash. Quando finirò non mi importerò se sto bene con me. E la fragilità con facilità si contiene perché amori non si decidono, dolori non si reprimono, colori assieme si mischiano, canzoni che si registrano, hai voti fini all'unisono, incontri che poi ci uniscono, ricordi mamma lo scivolo, ritorni di nuovo piccolo. Amori non si decidono, dolori non si reprimono, colori assieme si mischiano, canzoni che si registrano, hai voti fini all'unisono, incontri che poi ci uniscono, ricordi mamma lo scivolo e ritorni di nuovo piccolo. Balla la testa. Se parliamo di soldi ci balla la testa. Perché ci siamo fatti da soli ci pensi. In piazza la sera eravamo in 40 matti e gli sbirri fingevano non esistessimo. Se eravamo in 40, aia. Ho una bandana mica una pistola, ho le catene mica una pistola. Sei qualche amico con una pistola, però al commissario abbassi la pistola. Lei se mi ha sentito prendere in giro, si faccio rap ma non sono un pericolo. Che le persone siano libere di esprimere amore nel modo più libero. Oh oh. La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta. Uno sul mento, qualcuno alle costole. Quando finirò, non mi importerò se sto bene con me. E la fragilità con facilità si contiene perché amori non si decidono, dolori non si reprimono, colori assieme si mischiano, canzoni che si registrano, hai voti fini all'unisono, incontri che poi ci uniscono, ricordi mamma lo scivolo, ritorni di nuovo piccolo. Amori non si decidono, dolori non si reprimono, colori assieme si mischiano, canzoni che si registrano, hai voti fini all'unisono, incontri che poi ci uniscono, ricordi mamma lo scivolo e ritorni di nuovo piccolo. Lui non vede, dimmi cosa credi, nessuno mi crede. Baby no, già lo so, tu mi vuoi. Una baby doll ma dai. E Rieccoci qua, ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger. Abbiamo finito questa lunga settimana. Siamo arrivati al venerdì con il nostro appuntamento fisso che va dalle 17 alle 18 qui dal Brancaleone. Abbiamo cambiato assetto nella stanza viola del Brancaleone che ci ospita. Siamo molto più professional, piano piano ritorneremo in quello che era la nostra amata bolla, ma oggi torniamo alla puntata, il tema della puntata di oggi, il Made in Italy. Il Made in Italy si associa tendenzialmente a tutti quei prodotti che provengono appunto dall'Italia, quindi che certificano la qualità del prodotto. E questo equivale anche un po' per tutti i prodotti che provengono dall'Unione Europea, ma il Made in Italy diciamo che è una cosa che ormai è diventata un po' di tendenza, perché del Made in Italy se ne parla appunto in tutto il mondo, siamo rappresentati non solo in Europa ma anche oltreoceano. E abbiamo tanti prodotti, non solo prodotti culinari, ma prodotti anche che vanno dalla moda alla musica. Abbiamo la famosa moda italiana che già dai tempi storici, ad esempio faccio l'esempio di Valentino, che ha rappresentato e rappresenta tuttora l'eleganza e la raffinatezza del Made in Italy, il famoso Rosso Valentino. E ora passo un attimino il mic alla nostra amica Alice, con la quale gli farò delle brevi domande, così intanto iniziamo quella che è la nostra chiacchierata sul Made in Italy. Allora, si parla di Made in Italy, quindi tutto ciò che riguarda l'Italia. Ad esempio, una cantante che ti viene in mente che può essere, che è rappresentante dell'Italia, dici un po'? Annalisa. Perfetto, poi visto che tu fai moda, abbiamo parlato di Valentino, e non lo so, anche qualche monumento, perché appunto cioè, il Made in Italy riguarda anche il monumenti, quindi la storia, la cultura, e dacci qualche esempio di bellezze Made in Italy. Allora, la moda a Milano sta perché va alla moda. La famosa settimana della Fashion Week. Anche perché non è facile trovarle, diciamo, in zona. Perfetto. Poi, non lo so, del Made in Italy che altro ti viene in mente? Tipo qualche monumento, qualche cosa anche che riguarda il cibo, perché appunto si diceva del cibo, i prodotti tipici italiani, ad esempio il vino, l'olio, tipico ad esempio della Puglia, quando si associa l'olio viene in mente la Puglia. Allora, il mio tipico piatto italiano è la carbonara. Perfetto, oltre che Made in Italy è Made in Roma, quindi proprio per rappresentare. C'è un posto che si chiama proprio Italy. Ah, Italy, sì, esatto. Pure questo è famoso perché si trovano tante cose buone da mangiare. Esatto, un noto supermercati, cioè è una catena molto famosa, insomma, diciamo che dove ci sono dei prodotti e anche tanti ristoranti da mangiare. Perfetto, perfetto. E insomma, visto che abbiamo parlato del Made in Italy, il cibo Made in Italy, poi c'è ad esempio il discorso della dieta mediterranea che rappresenta, che è una dieta che viene seguita abbastanza in tutto il mondo, che rappresenta anche un po' la cucina tipica italiana. Abbiamo parlato di cucina, parliamo anche di musica, andiamo con un pezzo che è stato quest'anno uno forse dei pezzi più rappresentativi, appunto Made in Italy. Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano. Dimmi come si fa a restare fedeli. Sex boy ma non parlo americano. Per i tuoi sei un tipico italiano. Tu sai che non è la cosa giusta. amore, sono meglio suonate, te le canto così. Ai ai ai ai ai, nel momento piccante, ti messaggia l'amante, ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi, se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. Ci lasciate fare il sesso, made in Italy. L'amore, made in Italy. Il sogno, made in Italy. La storia, made in Italy. Sono un bravo cristiano, ma non sono cristiano. Tu fa l'americano, io voglio morire da italiano. Io voglio una vita come Vasco, stringere la mano a Celentano. Ti voglio nuda col calzino bianco, l'uomo vitruviano, io sono il tuo Leonardo. La mamma marama, si le piace a papà parapà, non gli piace a te, te, te piace un altro, ok? Nel mio letto c'è spazio. Ma le canzoni d'amore sono meglio suonate, te le canto così. Ai ai ai ai ai, nel momento piccante, ti messaggia l'amante, ma va bene così. Ti piace che sono perverso e non mi giudichi, se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. Ci dicono di no, e adesso ci lasciate fare. Il sesso, made in Italy. L'amore, made in Italy. Il sogno, made in Italy. La storia, made in Italy. Sexy lady, ti piace che sono perverso e non mi giudichi, se metterò il rossetto in ufficio lunedì. Da due passiamo a tre, più siamo e meglio è. Ci dicono di no, e adesso ci lasciate fare. Il sesso, made in Italy. L'amore, made in Italy. Il sogno, made in Italy. La storia, made in Italy. La festa, made in Italy. La voglia, made in Italy. I piedi, made in Italy. L'Italia, made in Italy. Yes, di Made in Italy si parla oggi a Jolly Roger, puntata di venerdì 17 marzo. Abbiamo parlato appunto pezzo rappresentativo di Sanremo, questo Made in Italy, tema della puntata. Sanremo appunto è un prodotto Made in Italy, festival della musica italiana che viene mandato anche, viene trasmesso, almeno una volta era trasmesso in Eurovisione, ora non so, indubbiamente la tecnologia è... consente, insomma, l'utilizzo dei mezzi sono migliorati. Allora, abbiamo parlato quindi un po' di cibo, un po' di quello che è il Made in Italy. E ora passo il mic al nostro amico Luca. Sera a tutti, io sono Luca e oggi vi racconto delle cose a me piacciono del Made in Italy, cioè insomma della nostra amata Italia, che c'è molte cose. A me piace come piatto la pizza margherita, che giustamente se te gli fai qualcosa il napoletano ti sbatte fuori. Appunto, la pizza è un altro prodotto made in Italy che oltre a essere il più copiato al mondo è quello che viene gustato di più da tutti gli stranieri che vengono qui in Italia, giusto? La tua pizza preferita appunto è la pizza margherita. Poi mi piacciono i gustosi cannelloni, i tortellini alla Dybala. Tortellini di Bala ancora non li conosco. Di Bala poi è argentino, quindi diciamo un mix italo-argentino. Poi raccontaci un po'. Poi a me piacciono alcuni monumenti. Sono stato a visitare il Castel Sant'Angelo, in cui il Papa si rifugiava durante le guerre. Poi ho visto Città del Vaticano, il Colosseo, l'Altare della Patria, che ha costruito il nostro, la Torre di Pisa. L'altare della patria che ha costruito il nostro Vittorio Emanuele II, che è sepolto al Pantheon. Poi, ecco, poi ci sono molti monumenti, tra cui uno dei miei preferiti è la Torre di Pisa, che sono stato al campo scuola, come ho detto, nella scorsa stagione, giù alla postazione con la bolla. E nulla, poi come sappiamo qua in Italia, sta cosa è meglio non dirla. È storta. Per quale motivo è storta? Ora lo spiego. Sotto c'è una cosa che gli impedisce di stare dritta, ma poi è storta. C'era una persona che voleva riaddrizzarla bene. E chi era? Qualcuno che è meglio non nominare, ovvero il Dux. Vabbè, perfetto. Abbiamo raccontato quindi la storia da Torre de Pisa. E niente, proseguiamo col pezzo che hai scelto. Dici un po' qual è il pezzo. Tutti i miei ricordi, Marco Mengoni, che dedico a quella Befana laziale di mia madre. Passa un'altra ora sopra l'ombra che divide, prepotente i nostri corpi che si cercano distanti. È una città che muore nella foto di un tramonto che invano cerca il sogno di una notte malinconica. Tu sola nella stanza, come un fiore che si piega, obbediente all'imbrunire e aspettando un nuovo sole nello specchio. Stai scrivendo ora il tuo nome per segnare il tuo passaggio. Ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parla di Made in Italy, abbiamo parlato un po' di cultura, come non menzionare la cultura italiana, appunto, la Divina Commedia, abbiamo parlato di cibo con le varie ricette che piacciono qui a Jolly Roger, e ora parlando anche di Made in Italy, il nostro amico Lucone ci racconta, ci dà, secondo lui, quali sono i suoi prodotti Made in Italy più, diciamo, che lo rappresentano, ecco appunto. Dopo aiuto. Ah, questo è il suo saluto. Poi, allora, cosa ci dice, cosa ti piace, soprattutto a noi ce lo raccontavamo prima fuori onda, lui ha i parenti un po' sparsi in giro per l'Italia e non solo, e quindi cioè, una parte dei suoi parenti si trova in Calabria, quindi diciamo che oltre a salutare tutti gli amici calabresi, ci dice quali sono i suoi piatti calabresi preferiti. Anduja. Perfetto, anduja e poi? Coca-Cola. Vabbè, questa insomma, cioè, ovviamente uno se mangia l'anduja o la Coca-Cola per digerire e soprattutto per smaltire il piccante. E passiamo un altro pezzo e poi andiamo, proseguiamo la nostra chiacchierata sul Made in Italy. Milano ci accoglie e abbraccia faccia, concerto e un mezzo sorriso d'Europa. Bologna nel cuore, una vecchia stazione, canzoni d'amore del dopo. Venezia che affonda, bellezza che abbonda, abbonda Torino il mistero. In centro a Firenze una tipa che danza e celebra la primavera. C'è un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. Un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui. Offre da bere, poi ride per quelli che siamo. E Napoli è un'isola sempre per sempre, e tu che mi abbracci più forte. Mi chiedi di cosa siamo composti, che tanto sai già la risposta. C'è un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. È un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui. Cielo ed inferno, non sempre puoi fare una scelta. Il mare che spinge, la costa che stringe, l'insegna c'era una volta. È un treno che non ferma mai, non cambia mai, non smette mai. È un treno che non è mai stato una volta in orario. Tutte queste vite qui. Nel Made in Italy, sotto queste lune qui. Tutti Made in Italy. E a Belli come il Sole ritorniamo in diretta, perché Jolly Roger è bello come il sole. Invitiamo tutti quanti a passare a trovarci in quel di Via Levanna numero 11 al Brancaleone, che ci ospita, e salutiamo tutte le amiche e tutti gli amici appunto che frequentano e passano volentieri il loro tempo libero in quel del Brancaleone di Roma. Allora, torniamo in quel della puntata di Jolly Roger. Appunto, si parlava di Made in Italy. Ora è qui con noi anche la nostra amica Carola, che appunto fuori onda si diceva che c'è un po' di agitazione, ma è normale, perché anche noi non siamo immuni all'agitazione, all'ansia da prestazione, come si dice, l'ansia della diretta, e il bello della diretta è anche questo. E passo subito il mic intanto al nostro amico Matteo, appunto, che sta con la sua amica Carola, e iniziamo con parlando insomma sempre del Made in Italy. L'Italia è famosa nel mondo per i piatti tipici e per i prodotti di alta qualità. Allora, quali sono i piatti tipi italiani conosciuti in pasta, la carbonara, le tagliatelle al ragù, la lasagna e anche i tortellini al sugo. Per fare 4 piatti, quali prodotti usiamo fare 20 piatti tipici? Allora, la pizza ha un impasto fatto di acqua, farina di frumento e lievito. Deve lievitare per una giornata intera e viene lavorato fino a ottenere una forma piatta. Viene cotta al forno e condita in modo diversi. In Italia ci sono ottime farine, il pomodoro è coltivato nelle nostre campagne e la mozzarella si produce nei caseifici che sono in Italia, specialmente al sud. Non c'è la ricetta della carbonara? Questa è una domandona, visto che appunto a quanto pare la carbonara è il piatto tipico di Jolly Roger, quindi noi invitiamo qualsiasi ascoltatore che non sia solo romano nell'invitarci a gustare una ottima carbonara. E ritorniamo, quindi qual era la domanda per Carola? Conosci la ricetta della carbonara? Certo, la carbonara è un piatto tipico italiano che si prepara con il pecorino, le uova, il pepe e il guanciale. Mi raccomando, il guanciale e non la pancetta come fa qualcuno. E non diciamo chi. Si cuoce la pasta de rigatoni o mezze maniche. Poi si soffrigge il guanciale in una padella e si fa croccante. Si conserva il guanciale da parte e si sbatte il tuorlo e l'uovo. Uno testa per le persone che mangiano la pasta, un uovo intero, con tanto pecorino grattugiato fino a fare una crema. Si lessa la pasta e si mette nella pentola. Si aggiungono le uova sbattute e il guanciale. Mi raccomando, non accendere il fuoco sotto la pasta, le uova e il guanciale. Infine verrà fuori una crema deliziosa e puoi aggiungere altro pecorino sopra la pasta e il pepe. E io... Guarda, ma cavolo, che cade il guanciale? Allora... Il guanciale è un salume preparato con la carne della guancia del maiale. Ha delle parti più grasse e parti più magre. Spesso è ricoperto di pepe che dà un sapore più forte. Cavola, qual è il tuo piatto preferito? Allora, il mio piatto preferito è spaghetti, pomodorini e cozze, che è molto tipico della Puglia, appunto. Io, qual è il procedimento? Allora, in una padella fate soffriggere 2 spicchi d'aglio, del prezzemolo e dei pomodorini. Poi unite le cozze, o vongole che siano, a vostro piacimento e aggiungere un po' di acqua di cottura. Al termine unire gli spaghetti al sugo e completare la cottura. Ora il piatto è pronto per essere degustato. Perfetto Carola, quindi io mo ti lancio sta bomba, visto che noi il mercoledì ci troviamo sempre qui in quel de Branca a fare un laboratorio di cucina, ti inviteremo anche a quel laboratorio soprattutto per cucinare ma anche per mangiare. Detto questo, visto che sei nostra ospite, ora ci presenti anche il pezzo che ci porti. Certo, Brividi di Blanco e Mahmood. Perfetto. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se il senso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherai per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi. Tu, mattino. Tu che sporchi il letto di vino. Tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipe. Sempre e ti vorrei rubare un cielo di perle e pagherai. E questa era Brividi, vincitrice appunto di Sanremo dello scorso anno, tipiche voci italiane, quelle di Blanco e di Mohamed, anche se diciamo appunto come dicevamo prima sono il Made in Italy, quello che hanno... Mohamed appunto, no Mohamed come diceva Chiara, no perché stavamo un attimino presi da altre argomentazioni, quindi... appunto facendo mente locale si parlava appunto di Sanremo, del Made in Italy, di gruppi che emergono e vanno anche, fanno la fortuna, hanno fatto un tour in America non un po' anche rappresentativo di quella che è la musica italiana. E proseguendo appunto passiamo un altro pezzo scelto dalla nostra amica Carola e poi ritorniamo in diretta sempre parlando di Made in Italy. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi, forse fa male eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù, la vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te, io mi fido di te. Ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, culi e catene, assassini per bene, la radio si accende su un pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno, più per meno meno, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te. Io mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, dottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione. Forza e coraggio, la sete e il miraggio, la luna nell'altra metà. Lupo in agguato, il peggio è passato, forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra il burrone, di guardare giù la vertigine. Non è paura di cadere, ma voglia di volare. Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, mi fido di te, mi fido di te. Cosa sei disposto a perdere? Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, in onda tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E appunto in fuori onda si parlava di cantanti, di premi vinti a livello internazionale, ma ora elenchiamo, cioè Matteo si era preparato un po' quali sono i 10 cantanti italiani più famosi nel resto del mondo. Io lavoro Puneni e a Tre Potelli e Luciano Pavarotti, poi e Tiziano Ferro. Perfetto, questi sono diciamo anche artisti che hanno fatto concerti e live in diverse parti del mondo. Poi a Carola facciamo dire altri cantanti che sono rappresentativi in tutto il mondo. Allora, per esempio Zucchero, poi abbiamo i Maneskin, Mina, Ramazzotti e Il Volo. Vabbè, Il Volo siamo impreparati sul Volo, però siamo preparati sui Maneskin, appunto, che nel 2021 cosa hanno vinto? Chiaura? Gli Eurovision. Anzi, come si diceva, come mi suggeriva qualcun altro, il 2021 è stato proprio il Made in Italy, abbiamo vinto gli europei. I Maneskin hanno portato la loro musica in tutto il mondo e appunto noi ascoltiamo un pezzo dei Maneskin. Welcome to the city of lies, where everything's got a prize, gonna be in your favorite place. You can be a movie star and get everything you want, just put some plastic on your face. This place is a circus, you just see the surface, they cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked, just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them. Don't act like you don't know. We'll been acting cool. Don't care if your day is blue. Nobody loves a gloomy face. Just take your pills and dance all night. Don't think it all, that's advice. So come on, let's try it, just a taste. This place is a circus, you just see the surface. They cover shit under the rug. You can't see they're faking, they'll never be naked. Just fill your drink with tonic gin, this is the American dream. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you are just like them all. Don't act like you don't know, so sip the gossip, drink till you choke. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, si parla appunto di Made in Italy, di tutto ciò che viene esportato al di là dell'Europa e oltreoceano. E appunto un'altra cosa che è rappresentativa dell'Italia è il tifo, il calcio. E quindi appunto questo è il momento dei nostri pronostici, o meglio dei pronostici del nostro amico Matteo. È una settimana abbastanza impegnativa, è stato dopo il weekend scorso sono stati 4-5 giorni in cui le squadre italiane si sono affermate anche in Europa, tutte tranne una, ma non diciamo chi, mi arrivano oggetti nel frattempo, però appunto questo è anche il weekend di una partita importante soprattutto per la capitale, ma anche di questa non ne parliamo, e quindi niente, andiamo con i nostri pronostici, con l'invito a chi gioca, chi fa picchetti, scommesse o altro, visto che comunque il nostro amico Matteo la settimana scorsa due partite l'ha azzeccate, quindi io appizzerei le orecchie. Allora io Peter da solo, poi Apuli Pitellepoli, poi Mota Tremonese Pite Monza, poi Verona Pite la Sap. E l'ultima partita? Ah, e Ite Juve! E dici un po' Inter Juve, che è anche il famoso derby d'Italia? E io Pitellite! Perfetto, e andiamo con un altro pezzo musicale e poi torniamo con il momento delle battute. Precipitati in un realismo magico, l'amore è il sesso che diventa panico, Amone ruda ma è melodrammatico, io strunzo e sadico e tu peggio di me, sogno un crash test in un best western, George Best via da Manchester, Mike Tyson che ne paga 7, se contasse l'ansia siamo trendsetter, motorini nella notte scura, puoi veder l'Italia quando si alza il fumo, settimana della moda, invitami alla tua sfilata e ti mando a fanculo, è inutile parlare delle stesse cose. Parliamo sempre di scappare, non ricordo dove. Forse in un sogno che sembrava un incubo, ma era bellissimo. Forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando. Al contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco. Fianco a fianco, è tutto contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango. Contrabbando, però va tutto bene, e se qualcuno te la chiede, come stai, come sto, come stai, come sto di merda. Scriveremo ti amo in elvetica, sopra l'Unione Sovietica, cediamo Bocelli all'America, rimpiango la cultura ellenica, Paganini non concede il bis, Sergio Bis, Amadeus porta a Sanremo i Kiss, la trappa e la drill, le droghe e le miss, la mafia, la chiesa, poi nasce Peris. È inutile parlare delle stesse cose, parliamo sempre di scappare, non ricordo dove. Forse in un sogno che sembrava un incubo, ma era bellissimo. Forse in un posto che sembrava un altro, non me ne ero accorto, ma stiamo tornando al contrabbando. Giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te la chiede, come stai, come sto? Come stai, come sto? Altro che la notte degli Oscar, in giro da noi solo pazzi. Io frate ne conosco tanti che meriterebbero schiaffi da questi politici nazi, a tutti questi rapper scarsi. Bombe nucleari sulla mappa, qualcuno vada da Putin e gli spari in faccia. Passami il microfono, si rappa, passami la penna, però è finita la carta. Oggi tutto fa notizia, ordiniamo un'altra pizza. Non accetto mai una riga per non finire su Striscia. Sembrava un sogno e stavamo volando via dal fango e dalla notte scura che ci fa paura. Ma ci sarà qualcosa che possiamo fare. Contrabbando, giochiamo con il fuoco sotto banco, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Adesso che uscivamo via dal fango, fianco a fianco, è tutto a contrabbando. Però va tutto bene, e se qualcuno te la chiede, come stai, come sto? Come stai, come sto? Di merda. La puntata è scivolata in maniera veloce, fra una chiacchiera e un'altra, un mio errore e l'altro pure. Però a noi ci piace così, anche questo è il bello di Jolly Roger. Ci prepariamo, prepariamo, ma è sempre il bello della diretta è anche questo. Appunto, ci prepariamo, qualcuno si era preparato e qualcuno è stato blastato oggi. E detto questo, passo al momento delle battute e passo il momento il mic alla nostra amica Alice. C'è una mela ed un'arancia che giocano a carte. La mela dice: l'arancia, forza, forza pesca. Una lavanderia faceva affari sporchi. Qual è l'ave più difficile da digerire? La peperonata. Qual è il formaggio servito nei vagoni ristorante? La mozzarella in carrozza. E questi sono i must di Jolly Roger. Di solito questo è il momento delle battute della nostra amica Luca, ma oggi è andata così. Proseguiamo con un altro pezzo musicale, poi parliamo, affrontiamo gli ultimi minuti di quello che è stato il tema della puntata, il Made in Italy. Paura di non riconoscerti mai più. Non credo più alle favole. So che ho un posto ma non qui. Tra le tue grida in loop corro via su una cabriolet. Di noi resteranno soltanto ricordi confusi, pezzi di vetro, mi spegni le luci se solo tieni gli occhi chiusi. Mi rendi cieco, ti penso com'è per rialzarmi. Sto silenzio potrebbe ammazzarmi. Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un odore ancora, nel buio balli da sola, spazzami via come cenere. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora, ma verrai via con me. Ho visto un paio di inferni alla volta. So che vedermi così ti impressiona. Primo in classifica ma non mi importa. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che detesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto con me ci abbia preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Aiutami a sparire come cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola. Spazzami via come cenere. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora. Puoi cancellare il mio nome, farmi sparire nel fumo. Come un pugnale nel cuore, come se fossi nessuno. Via come c'è. Rinasceremo insieme dalla cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da sola. Bella che mi sembri venere. Scendi che il tempo non vola, sono qua sotto da un'ora. Tu sei più caldo del sole, invece freddo mercurio. Lasciamo quelle parole dimenticate nel buio. Via come c'è. Torniamo qui in diretta, ultimi minuti, il momento dei saluti, un momento un po' per riassumere quella che è stata la chiacchierata di oggi del Made in Italy. Abbiamo parlato principalmente dell'arte culinaria che rappresenta il Made in Italy, quindi i prodotti tipici, i piatti tipici. Abbiamo parlato anche un po' di calcio, di quello che si aspetta da questo weekend, che si spera che sia il primo weekend sereno dopo tanto inverno. È appunto l'ultimo weekend d'inverno, e ci ritroveremo la settimana prossima sicuramente più carichi ed energici. E salutiamo la nostra amica Carola, salutiamo tutta la terza E del liceo linguistico Orazio, con il quale è nata una piacevole collaborazione che proseguirà nel corso dell'anno scolastico e poi chissà, quindi non spoileriamo niente. E salutiamo tutti le amiche e tutte le amiche appunto della nostra cooperativa di Idea Prisma. Saluto tutti gli amici di Gemini Network, che settimana prossima, il 25 di marzo, saranno qui al Brancaleone per una giornata piena di dirette, workshop, e presentazioni e tanta musica. Noi di Jolly Roger il 25 saremo a festeggiare il nostro amico Matteo per i suoi 18 anni, lo diciamo in maniera proprio anche radiofonica, e festeggeremo quello che ormai diventa il nostro maggiore, quindi probabile anche all'arresto. No, si scherza. E quindi niente, è stata una puntata ricca di contenuti, ma visto che questo è il Made in Italy, è un argomento abbastanza lungo, visto che abbiamo parlato anche di musica, magari piano piano anche settimana prossima proseguiremo la nostra chiacchierata. Quindi passo il mic per i saluti e poi ultimo pezzo per noi, buon weekend a tutti e a tutte. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. A settimana prossima, buon weekend a tutti e tutte. Vai. Io che non ho mai avuto una donna per un po', ho sempre tenuto le relazioni distanti. Vogliono tutte prendere qualcosa che non ho. Non ci si lega alle persone quando si è grandi.